tese alla notte qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Quando il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Oggi è mercoledì 16 di maggio e sono le 3:02 e inizia la conta, trasmissione contro il carcere, contro il carcere, contro il manicomio, contro qualunque altra struttura segregante. Intanto buona libertà a tutte e tutti, soprattutto a coloro che ci ascoltano dietro le sbarre, quelle orribili odiate sbarre del carcere. Dunque, cosa succede in carcere? Partiamo dagli aspetti più drammatici del carcere. Si muore in carcere. Si muore in carcere, si muore tanto, si muore per suicidio, si muore per mancata assistenza, le patologie che uno ha in carcere si aggravano. Appunto per mancata assistenza oppure assistenza insufficiente. Allora vediamo, intanto a tutt'oggi, cioè a ieri, i morti sono 42 in totale dall'inizio dell'anno, di cui 15 sono suicidi. I suicidi, alcuni suicidi, vogliamo soffermarci su alcuni perché sono veramente grotteschi, cioè allucinanti. È chiaro che il suicidio in carcere è un fatto complesso, il suicidio in generale è un fatto molto complesso, un atteggiamento dovuta alla depressione, alla persona che non ha più fiducia nelle proprie forze, nelle proprie possibilità di reagire, di contrapporsi a una situazione devastante e soprattutto non ha più, non guarda più una prospettiva davanti a sé, non si sente in grado di modificare l'esistente che lo vede intrappolato o intrappolata e quindi perde una qualunque speranza. E dunque, soffermiamoci su alcuni perché sono particolarmente drammatici, non solo vedono la responsabilità del carcere, ma soprattutto del carcere in particolare. In questo caso ci sono anche degli indagati, denunciati, andranno sotto processo, dottori o responsabili o le guardie della custodia, ma anche proprio del sistema carcere. Vediamo intanto a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, un carcere molto famoso perché appunto sempre tra le prime cronache dei fatti drammatici. Una persona è morta. Allora, intanto dice, una persona sta in carcere, è morta. Questa era una persona paraplegico, cioè un paralitico in sedia a rotelle. Domanda, che ci faceva un paraplegico in carcere? Sapete, il carcere non ha quelle cose che non è che fuori abbondino, però insomma ogni tanto qualche posto, c'è per esempio un marciapiede che c'ha lo scivolo, qualche volta invece delle scale appunto ci stanno gli scivoli, a volte ci stanno il salvascale, il montascale, cioè questi piccoli accorgimenti non diffusissimi come in altre situazioni, in altri posti, in altri paesi, da noi sono molto scarse, però qualche cosa c'è. In carcere non c'è niente di tutto questo. Potete fatevi un giro per le carceri, ma proprio niente, nemmeno uno scivolo, tutte scale e gradini, quindi una persona paraplegica che sta in sedia a rotelle non si può muovere dalla cella, rimane in cella 24 ore su 24. Questa persona non è che avesse fatto chissà quale gravi, stava già agli arresti domiciliari. Era una persona, Giuseppe si chiamava, il cognome lo mettiamo, non lo mettiamo perché non, meglio rispettare la privacy di questa persona. 59 anni aveva, quindi non era un giovincello, stava agli arresti domiciliari per alcune condanne. Gli sono arrivato un definitivo e l'hanno portato in carcere per quei meccanismi automatici, si dice così, però non sono automatici, perché c'è sempre una persona, un essere umano, che dovrebbe essere un uomo o una donna, dovrebbe esserlo, che firma un provvedimento di carcerazione. Non viene automatico, si dice automatico, che vuol dire? Cioè, se tutto passa attraverso delle persone. Ebbene, una persona, non sappiamo se uomo o donna, ha firmato questo ordine di carcerazione senza leggere un attimo quello che c'era scritto: paraplegico, persona in sedia a rotelle. Insomma, è stato portato in carcere, stava male, già stava male perché appunto non aveva tante patologie oltre quella di essere paraplegico. Il suo avvocato, appena portato in carcere, fece subito l'istanza alla magistratura di sorveglianza perché tornasse ai domiciliari, dove stava a scontare l'altra pena, cioè un'altra condanna, e questa avrebbe potuto agganciarsi a quella rimanendo agli arresti domiciliari, dove aveva più possibilità di movimento. Probabilmente casa sua era anche attrezzata a che potesse muoversi più liberamente anche sulla sedia a rotelle. Bene, invece per motivi di salute, perché ovviamente sono oggettivi i motivi di salute, la risposta è arrivata il giorno dopo che lui è morto. La cosa drammatica, se queste cose sembra da film ironico, ma qui c'è la morte di una persona, quindi c'è poco da ridere. Il problema è che si aggrava ancora più il dramma, perché il 19 aprile aveva fatto un colloquio con la moglie, che aveva appunto, si stava dando da fare insieme all'avvocato per farlo tornare agli arresti domiciliari. Appena tornata a casa ha saputo che il marito si era sentito male, era stato portato all'ospedale, ma era arrivato morto. Allora, questo per dire come funziona. Ora, già il carcere, lo sapete come la pensiamo, non dovrebbe esistere per nessuno. Per nessuno, perché non serve a niente, perché togliere la libertà, crediamo che non sia, nessuno dovrebbe avere in una società che si ritiene civile l'autorità per togliere libertà a chi che sia. Ci sono tanti altri sistemi di sanzione, si dovrebbe, questo infatti è un dibattito che è iniziato tanto tempo fa, poi si è arenato perché c'è questo questo vento di estrema destra che gira un po' su tutta l'Europa e anche su parte del mondo, che ha cancellato tutto quello che erano stati gli avanzamenti fatti anche intellettuali, cioè di proposte e reali, e che avanzamenti reali fatti dall'umanità in questo scorcio di nel secolo scorso. Bene, il problema era che appunto il sistema sanzionatorio è stato sottoposto a critica, e sono stati questo che toglie la libertà in primo luogo, ne sono stati portati tanti, ce ne stanno mille altri, basterebbe solo mettersi a ragionare, ma io credo che se la gente si mettesse a discutere liberamente, cioè senza pregiudizi, cioè liberi, senza pregiudizi cretini, senza le paure indotte dai media, dalla televisione, potremmo decidere tranquillamente tutti insieme in poco tempo e trovare un sistema sanzionatorio alternativo a quello attuale, vergognoso, criminale, perché togliere la libertà significa, è il concetto del campo di concentramento. Il campo di concentramento non è una cosa inventata che viene da Marte, era semplicemente, come l'abbiamo detto mille volte, ma come l'hanno detto chi c'è stato nei campi di concentramento, per esempio Primo Levi e tanti altri, hanno detto che il campo di concentramento non è altro quello nazista, quello di Auschwitz, tanto per fare un nome, Birkenau, che volete. Non è altro come l'estremizzazione del carcere, perché toglie la libertà, toglie quindi tutto, perché tutto sta dentro la libertà di movimento. Ecco, quindi i sistemi sanzionatori sono migliaia, ne potremo trovare tanti diversi da quelli del carcere di togliere la libertà. Ma questo discorso oggi, data questa questo fango in cui stiamo tutti scendendo penosamente, non c'è in questo paese, ma un po' in tutta Europa, non c'è un dibattito intellettuale di portata, non c'è discussione intelligente. i social network sono la come dire, la miseria dell'umanità, forse mai così in basso è scesa l'umanità, e quindi ci sarà da lavorare, perché è difficile oggi. Ce n'è un altro sempre tra i morti, tra quei numeri che abbiamo dato all'inizio, drammatici, perché quei numeri sono numeri, no? Dire 43-44 morti, 15 suicidi, poi ciascuna di questi è una storia di una persona e del suo contorno, amici, persone legate di affetto, eccetera, soprattutto. Cioè, è tutto un pezzo di società che viene massacrato così. Comunque, l'altra storia di cui vogliamo parlare è quest'altro. Questa persona, la famiglia dice, stava male da giorni, da parecchi giorni, e Antonio è ricoverato in rianimazione per una sospetta infezione cerebrale. Non è uno scherzo, è una cosa molto grave, da cui è difficile uscirne sani, insomma, senza grandi conseguenze. Da 20 giorni avvertiva forti dolori a un occhio e alla testa e stava nel carcere di Poggioreale, quel famigerato carcere di Napoli. Gli somministravano antibiotici e antidolorifici, ma lì il problema non è somministrare gli antidolorifici o gli è capire che cos'è che sta succedendo, perché c'è un dolore agli occhi e alla testa contemporanea, e quindi capire se si poteva capire che c'è in corso una infezione cerebrale. Ma appunto, nonostante gli antibiotici e gli antidolorifici, stava sempre peggio. Aveva iniziato anche uno sciopero della fame, perché chiedeva proprio che gli venisse fatta un TAC per capire. Lui sentiva che qualcosa non andava nella propria testa e voleva un TAC per capire qualcosa, ma ovviamente non se ne è fatto niente. La situazione è precipitata e Antonio, 21 anni, appena 21 anni. Si uccidono le persone a questa età, a 21 anni, nemmeno il più feroce regime dittatoriale fa questi crimini. Vabbè, quindi tranquillamente, e non è che qualcuno si è detto oh, peccato, forse abbiamo sbagliato, nessuno ha detto niente, va avanti così, insomma. È stato ricoverato in rianimazione e non sappiamo come ne esce fuori. Ancora un terzo caso. Un ragazzo di 22 anni, anche qui giovanissimo, questo si è suicidato, si è impiccato a Regina Coeli il 24 febbraio scorso. Se ne parliamo oggi, ne abbiamo già dato il numero allora, però perché questa cosa anche la magistratura ha trovato delle responsabilità molto forti, e 8 agenti di polizia penitenziaria, 8 guardie e 2 medici interni al carcere sono stati rinviati a giudizio, perché intanto non doveva stare in carcere, e quindi i medici dovevano fare una relazione che si applicasse l'articolo 147, che ti porta fuori dal carcere quando le tue condizioni non sono compatibili col regime detentivo. Ebbene, questo si chiamava Valerio. La procura di Roma ha chiuso l'inchiesta con il rinvio a giudizio di queste 10 persone, 8 guardie e 2 medici. Perché stava a Regina Coeli? Non doveva trovarsi in carcere perché aveva delle condizioni, una grossa difficoltà, un grosso disagio mentale che il carcere da cui veniva diceva deve essere sorvegliata a vista, perché può fare delle cose strane. Infatti lui ha fatto il cordone, la corda con il lenzuolo, l'ha poi attaccata alla sbarra e si è impiccato. Ora è chiaro che la procura dice: quanto tempo gli ci è voluto per fare il cordone? Tanto tempo. Possibile che nessuna delle guardie, che pure erano incaricate della sorveglianza di questo ragazzo, si è accorta di queste manovre? Non è che ci si mette 5 minuti a fare una corda necessaria per impiccarsi, e quindi ha rinviato a giudizio tutti i 2 medici, perché non hanno detto che non doveva stare in carcere in quelle condizioni, e gli 8 agenti di custodia perché non hanno sorvegliato la situazione a dovere. E questo succede nelle meravigliose carceri italiane, forse democratiche, qualcuno li chiama così, ma I'm gonna have a baby. Oh, we must do it. Oh, we do it all night. Cause I have my annual imperial, you're so delicious. Now Howard the Duck and Mr. Stress both stayed delicious. Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious. Had a fuck off. They made me wanna. They made me wanna. They made me make it. Allora andiamo avanti e passiamo a questa, come dirla, come che vogliamo chiamarla, questa riforma invisibile, non se ne vede ancora, è come un ectoplasma, a volte compare e a volte scompare, un po' come quei film dell'orrore che abbiamo, qualcuno ha visto, insomma sono stati prodotti tanti, e si vede questa immagine, questa riforma che a volte sparisce, a volte riappare, poi risparisce, insomma a che punto sta, vediamo di seguirla. Allora, siamo arrivati agli ultimi giorni per due motivi. Uno, perché il 18, dopodomani, il 18 di maggio, c'è l'ultimo consiglio dei ministri di questo governo uscente, il governo Gentiloni. Probabilmente l'ultimo e probabilmente uscente, se va in porto il governo che si sta formando, 5 Stelle Lega. A quel punto si dimetterà e viene l'altro governo. L'ultimo consiglio dei ministri lo farà il 18 e molti, molti di quelli che è favorevole alla riforma spingono perché il 18 il Consiglio dei Ministri prenda a questo atto di coraggio e renda attuabili il decreto, perlomeno il primo decreto, quello più generale di questa fantomatica riforma. Potrebbe, può renderlo applicabile, può renderlo attivo il governo? Sì che lo può fare, perché abbiamo spiegato tante volte il meccanismo di questa legge delega che ormai risale un anno fa, a metà di giugno del 2017 il Parlamento italiano votò una legge delega che dava i criteri generali e le linee su cui doveva il governo poi costruire i decreti attuativi di quelle norme generali. Quindi la legge delega dà delle norme generali, dei criteri, fa una cornice e poi dentro quella il governo deve decretare quei decreti, poi per appunto la normativa è fatta in questo modo che quei decreti tornano non alle Camere ma alla Commissione Camere, perché è già stato approvato la legge delega, quindi è soltanto la Commissione che deve verificare se quei decreti rispettano quei meccanismi, quella cornice della legge delega, cioè se rispondono alle indicazioni di quella cornice, quindi è solo un passaggio spesso formale. Tutto questo si è bloccato, questo meccanismo, perché? Perché il ritardo di questo, considerate che questa cosa è cominciata nel 2014, questo lavoro, prima hanno fatto commissioni di studio, si è sentito molti esperti, anche persone brave, si è fatto di tavoli rotondi su tutti gli aspetti della detenzione, poi queste commissioni si sono riunite, hanno cominciato a buttare giù dei contenuti, questi contenuti di questi contenuti sono state tracciate le linee generali e sono state portate alle Camere. Camere e Senato che hanno approvato queste linee generali e quindi che si è chiamata legge delega, perché poi concretamente i decreti li deve fare il governo all'interno di quelle direttive della legge delega. Poi sarebbero dovuti appunto ritornare alle commissioni, perché dovevano semplicemente, hanno 10 giorni per verificare l'attinenza di quei decreti alla legge delega stessa. Ecco, è scarrucolato tutto, perché la legge è stata, diciamo, gli è stato dato il via libera dal governo il 24 dicembre, il giorno prima di Natale, e dopodiché si è bloccato tutto, e le vacanze di Natale. Poi sono state sciolte le camere, perché nel frattempo si sono indette nuove elezioni, quelle che sono state fatte a marzo, i primi di marzo, quindi gennaio e febbraio le camere erano sciolte, quindi anche le commissioni sono state sciolte. Poi dopo le elezioni c'è stata questa lungaggine della creazione del nuovo governo, quindi le commissioni, finché non si fa, il Parlamento non si divide in maggioranza e opposizione, non si fanno, perché la presenza in queste commissioni deve rispecchiare la presenza di tutti i gruppi parlamentari, però deve rispecchiare l'andamento, come dire, di maggioranza e opposizione che sta nell'intero Parlamento, in tutte le varie commissioni, sono tante, c'è la commissione giustizia, c'è la commissione difesa, tantissime sono, ecco, in queste commissioni i parlamentari sono dei vari gruppi parlamentari, però devono rispecchiare la proporzione che c'è quando si forma il governo, tra governo e opposizione a livello generale del Parlamento. Queste, quindi le nuove non sono state fatte, perché finché non si fa il governo con la nuova maggioranza non vengono fatte. Si è fatta allora una commissione speciale, cioè generale, praticamente speciale, come per dire generale, che doveva servire a coprire il vuoto di commissioni di governo, tra appunto il governo dimissionario e il nuovo ancora da venire. E allora molti speravano che questa commissione speciale avrebbe approvato questi, avrebbe visionato, poi non è deve approvare, deve visionare questo decreto, dire sì, rispecchia le linee della legge delega e rimandarla al governo. Non è stato fatto, perché? Perché intanto questa commissione speciale è stata data, il presidente di questa commissione speciale, tale Molteni, è uno della Lega, che è ferocemente contraria a questa riforma, anzi loro hanno detto, la Lega ha detto in campagna elettorale, se verrà approvata, allora si parlava appunto di approvazione di questa riforma, se verrà approvata questa riforma noi chiederemo o faremo il referendum abrogativo, e quindi non l'ha messa in discussione, non sta proprio nell'ordine del giorno della commissione speciale, quindi da lì non c'è niente da fare. Nel frattempo però il tempo passava, e allora e il meccanismo, diciamo, procedurale dice che trascorsi un tot di tempo, 60 giorni, anche se la commissione non ha dato il via libera, si ritiene automatico quel via libera, quindi può tornare come se fosse stata già visionata dalla commissione, può tornare al governo e il governo la può dargli il via libera, cioè renderla esecutiva. Il governo non l'ha fatto, perché ha detto, ma io sono un governo dimissionario, che c'entra? E qui si è scatenato adesso tutto il putiferio. Putiferio nel senso, ci stanno tutti i gruppi che premono per la riforma, in primo luogo sono la Camera Penale Italiana, cioè l'unione di tutti gli avvocati penalisti che appunto si sono dall'inizio mossi perché venisse approvata questa riforma. Anche perché non è una riforma che la parola, come al solito, sempre molto le parole sono a volte molto poco significative, perché vengono usate le parole sbagliate. Riforma dà l'idea di qualcosa di nuovo nel panorama nell'ordinamento, questa è riforma dell'ordinamento penitenziario italiano, questo è il titolo, sembra che porti qualcosa di nuovo nell'ordinamento penitenziario, in realtà porta la possibilità di rendere attuabili le leggi del 2012, quelle fatte subito dopo le multe comminate dalla Commissione Europea dei diritti dell'uomo allo Stato italiano, perché teneva le carceri in condizioni incivili, indecenti, questa la parola che ha usato, quindi un po' grave, e che ovviamente ha fatto vergognare quelli che hanno la capacità di vergognarsi, molti non l'hanno nemmeno, quindi bontà loro, però insomma molti sono preoccupati, eccetera, e il governo fece in fretta e furia delle leggi per svuotare un po' il carcere, si è arrivata alla soglia dei 70.000, e quindi si fecero le leggi per svuotarle un po', che sotto la pressione dell'urgenza, altrimenti arrivavano in continuazione multe dalla Commissione Europea, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ACEDU in sigla, in acronimo, a quel punto hanno fatto questi, che l'hanno fatti male, tante leggi sono fatte male perché non spiegano tutti i passaggi necessari a farle attuare, e infatti quella sta lì, dice che per esempio la norma principale è, cioè questa riforma dovrebbe favorire l'andare in misura alternativa per svuotare un po' il carcere, cioè le persone con piccole condanne inferiori a 4 anni oppure gli ultimi 4 anni di condanna li puoi trascorrere non in carcere ma in misura alternativa, arresti domiciliari, affidamenti in prova ai servizi sociali e altre cose, lavoro all'esterno eccetera, tutto quello che è l'insieme delle misure alternative, una di queste, e quindi svuotare un po' il carcere. Però non si riesce ad applicare perché appunto non era stata fatta bene quella legge. Questa cosiddetta riforma riempie quel vuoto che appunto mancava nella legge del 2012. Allora, quindi è più che altro una... certo, se questa riforma, cosiddetta riforma, questa, come dire, forse questa... questa semplificazione del meccanismo farraginoso che permetta ai detenuti di andare in misura alternativa può permettere appunto di ammandare in misura alternativa tantissimi detenuti e detenute, perché quasi 30.000 persone in carcere sui 58.000 hanno condanne meno di 4 anni, quindi questi potrebbero andare in misura alternativa e quindi il carcere si ridurrebbe molto. Però il problema è che soprattutto l'elemento centrale è che le persone condannate durante il processo vengono condannate a una pena inferiore ai 4 anni, attenzione, inferiore ai 4 anni, direttamente senza passare per il carcere, ovviamente durante il processo stanno a piede libero perché evidentemente l'ipotesi di reato per una condanna di 4 anni è lieve e non prevede la carcerazione preventiva, quindi stanno in libertà, hanno fuori in attesa della sentenza. Arrivata la sentenza, se è inferiore ai 4 anni non passano per il carcere, per poi mettere in moto quel meccanismo che complica le cose, perché se entri in carcere poi devi fare l'istanza, metti in moto gli educatori, il direttore, tutto, per poi il magistrato di sorveglianza, ma direttamente da fuori il giudice che ti condanna passa tutto l'incartamento ai servizi sociali, che compiono l'attività per permettere la persona, verificano tramite il commissario di zona o i carabinieri di zona se il domicilio è possibile, se c'è un lavoro, tutte queste cose qui, e direttamente dal processo, senza passare per il carcere, va in misura alternativa. In genere gli arresti domiciliari, poi con possibilità di uscire per lavoro oppure no, questo comunque poi si vede caso per caso. Questo è importante perché come dire, leva l'impiccio di attività che creano soltanto casino nelle situazioni carcerarie di persone che poi devono andare in misura alternativa. Allora, questa è sostanzialmente, poi ci sono altre piccole cose, ma sostanzialmente è questo il contenuto di questa legge che non riesce a vedere il sole. E sta ancora lì. Ora il 18, diciamo, c'è l'ultima, però non sappiamo come va. L'ultima se fanno il governo, se non lo fanno, sicuramente sto governo rimane ancora in carica. Poi non so quale altro governo. Questo è un problema che sta nei leader dei partiti e del Presidente della Repubblica. Per quanto ci attiene, il 18, cioè dopodomani, c'è questa Consiglio dei Ministri, probabilmente l'ultimo. E allora l'Unione Camere Penali italiana, quindi tutti gli avvocati penalisti italiani, hanno fatto un appello scritto rivolto direttamente a Mattarella, al Presidente della Repubblica, per dire che lui diciamo che faccia pressione verso il governo attuale perché dia via libera a questi decreti, perché siccome c'è da parte di Gentiloni, il primo ministro attuale, anche se dimissionario, una reticenza a dire io non posso dare via libera dei decreti perché sono dimissionario, sto qui solo per l'ordinaria amministrazione, e allora loro, se Mattarella però diciamo gli dà la copertura, potrebbe farlo. Quindi l'appello è rivolto a Mattarella perché faccia sta cosa. A tutt'oggi, 19 e 29 del 16 maggio, ancora nulla di fatto. Vediamo che cosa succederà. Dunque, nel frattempo però, a Napoli molti ex detenuti, questo è molto importante perché vedete che c'è ancora, anche se non è, non siamo negli anni in cui c'è grosso movimento, che da parte dei detenuti auto-organizzati, però comunque a Napoli un gruppo folto di ex detenuti insieme a familiari eccetera hanno fatto un sit-in sotto la procura per chiedere appunto la incriminazione, siccome Poggio Reale ha avuto tantissimi morti, suicidi oppure morti per mancata assistenza, perché si faccia qualcosa per evitare, cioè incrimini i responsabili per evitare appunto che queste morti in questo carcere continuano. E perché poi soprattutto c'è anche questa cella che i giornali chiamano cella zero, i carcerati da sempre chiamano cella liscia, è una cella che non dovrebbe esistere, apposta è zero, senza, non c'ha numero, perché poi i direttori dicono non esiste, il ministero dice non esiste, invece in tutte le carceri è una cella che stanno negli scantinati, in cui non c'è niente, ma proprio niente, a volte c'è soltanto una striscia di gomma piuma che dovrebbe fare le veci del materasso, nemmeno ricoperta, buttata lì e basta, non c'è niente, non c'è uno stipetto, non c'è il bagno, non c'è il lavandino, non c'è niente, c'è soltanto un buco in un angolo, il pavimento è in leggera pendenza, perché chi viene buttato in questa cella è costretto a fare gli escrementi sul pavimento, poi ogni tanto arriva la guardia con un getto forte di acqua, un tubo d'acqua, butta, lava questo pavimento e gli escrementi vanno in questo buco che sta in fondo al pavimento, al pavimento appunto. Questa è la cella liscia, chi ci mettono in questa? Non ci dovrebbero stare nessuno, infatti ufficialmente non esiste, e invece esiste, perché quando una persona, un detenuto, dà in escandescenza, secondo loro, oltre a imbottirla di psicofarmaci, se non ci riescono, le buttano là dentro. A volte queste celle lì, cella liscia era imbottita, infatti si chiama anche la cella imbottita, perché veniva messo alle a fianco alle pareti della gomma piuma, in modo che anche se desse delle capocciate al muro non si faceva male, perché c'era la gomma piuma che attutiva. Insomma, siamo a questi livelli, cioè non è che ci sta un medico che può vedere che una persona perché dà in escandescenza, ci sarà un motivo, ci sarà, vabbè. Questo è, però c'è stata importante questa manifestazione degli ex detenuti insieme ai familiari, perché si attivi dei controlli sul carcere di Poggio Reale, che non è il peggiore, ce ne stanno tantissimi, almeno però hanno segnalato uno dei peggiori carceri italiani. Tornando alla riforma, il ministro Orlando, intervistato da vari, gli hanno detto: vabbè, ma insomma, che effetto fa? La riforma porta il suo nome, no? Era il ministro, era in quel governo precedente in cui ha fatto stesse commissioni, eccetera, il ministro della giustizia. Che film sta facendo? Lui dice: il 18 maggio, quindi dopodomani, nell'ultimo Consiglio dei Ministri, mi darò da fare perché si approvi. E l'intervistato dice: ci riuscirà, non ci riuscirà, insomma rimane ancora tutto per aria. Riuscirà il ministro Orlando a convincere l'esecutivo al prossimo Consiglio dei Ministri del 18 maggio del governo Gentiloni a approvare il disegno di legge così com'è, con o senza l'ultimo parere stucchevole consultivo del Parlamento, in realtà della Commissione parlamentare, che siccome non c'è, però passati due mesi è come se ci fosse stata, cioè questo è il meccanismo, per evitare ostruzionismi per un provvedimento approvato dal Parlamento, per questo giustamente la procedura dice poiché è stato approvato, quindi c'è la volontà popolare di approvare quella legge delega che dovrebbe contenere quei decreti, per evitare eventualmente ostruzionismi, dice le commissioni hanno 10 giorni per verificare che risponda a quello schema. Se fanno passare i 10 giorni si ritiene, diciamo, approvata, quindi torna al governo e il governo gli dà via libera. Questo è il meccanismo. Però finora non ha fatto niente nessuno e quindi siamo un po' così. Rimanendo all'interno dei, come dire, delle cose assurde, inconcepibili, cioè si è sviluppata una polemica molto forte tra il Fatto Quotidiano e altri giornali sul problema della recidiva. Allora, la recidiva che vuol dire recidiva? Recidiva vuol dire il fatto per cui una persona va in carcere, esce e poi compie lo stesso un reato simile a quello per cui è entrato in carcere la prima volta. Quindi ripetere l'azione che ti ha portato in carcere la prima volta. Allora, qui su questo l'articolo di Barbacetto, un giornalista del Fatto Quotidiano, qualche giorno fa aveva detto: non è vero che, come dicono quelli che sostengono le misure alternative, che i detenuti che escono in misura alternativa compiono, diventano recidivi, cioè ricompiono il reato molto, molto di meno, un quinto di quelli che invece escono dalla cella alla fine della pena, perché c'è tutta un ragione, dice non è vero. E ha sentito un cosiddetto ricercatore e docente di diritto, tale Roberto Rosso, russo che non conosco, che dice che questo studio del 2007 che diceva questa cosa, fatto dall'Osservatorio di misure alternative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, cioè quello che comanda tutto quel dipartimento del Ministero della Giustizia che si occupa di carcere, che controlla le carceri, dice non è vero che dice questa cosa qui che tutti sostengono, quindi caldeggiano che i provvedimenti per andare in misura alternativa, perché così ci sarebbero meno recidivi. E allora tutta la polemica, chi dice sì, no, sbaglio, è stato un falso, perché sì, infatti i dati sono veri, i dati non sono veri, insomma sta di fatto che però insomma, allora, quelli che stanno in misura alternativa, i detenuti che non stanno in carcere ma alla fine del carcere lo passano in misura alternativa, sono quei detenuti che hanno avuto hanno trovato un lavoro, quindi l'ultima parte della pena la passano in un lavoro esterno, avendo degli obblighi che sono la sera rientrare o in carcere o a casa, non spostarsi al comune, c'è una serie di vincoli. Questa è un po' la misura alternativa, vincoli sì ma non in carcere, soprattutto vincoli di mobilità, di muoversi. Bene, questa polemica appunto si dice, ma è ovvio, perché se uno già ha trovato un lavoro e quindi finisce la pena con questo lavoro, probabilmente se lo mantiene, probabilmente, quindi è ovvio, era ovvio che questa ricerca diceva che erano il 20% quelli che escono a ricompiere il reato, cioè come recidivi, erano il 20% quelli che uscivano in misura alternativa ed erano il 70% quelli che uscivano invece dal carcere direttamente facevano la pena tutta dentro il carcere. Chi ci avrà ragione, chi non ci avrà ragione, comunque è veramente demente. Tra l'altro, cioè io chiaramente no, una parola che secondo me è ridicola e anche offensiva è la parola rieducazione e riabilitazione per quelle persone che vanno a finire in carcere, perché se tu mi levi la libertà, tu Stato mi levi la libertà, tu carcere mi levi la libertà e mi levi tutto quello che si chiama vita, cioè amicizie, affetti, conoscenze, mobilità, eccetera, tutto quello che chiamiamo normalmente vita, è chiaro che non puoi pensare di migliorarmi comunque, però questa cosa si chiama rieducazione e riabilitazione, quindi io non credo a queste cose qui, purtroppo c'è anche nella Costituzione, forse non sapevano che scrivere e hanno smesso questa cosa, forse per dire il carcere, perché a seguito quell'articolo dice che le misure, cioè il carcere non può consistere in trattamenti disumani e degradanti, non può essere ostacolo per la vita della persona e deve invece tendere, quindi come conclusione di un discorso, deve tendere alla rieducazione e riabilitazione del prigioniero, della persona detenuta. L'hanno messo a rafforzativo, ma credo che è difficile credere che il carcere, per come è adesso e per come è non solo qui in Italia, dappertutto, possa migliorare la persona che ci va dentro. Se uno migliora è perché dentro di sé si è migliorato, perché già era già c'aveva le caratteristiche. Che vuol dire poi migliorare rispetto a cosa? Io ho il sospetto, anzi la certezza, che quel miglioramento, quella rieducazione che loro vogliono, è quella che da sempre c'è nei collegi, nei campi di concentramento, cioè farti diventare una meba, una persona che non pensa, che non ragiona, che non sceglie niente, che deve subire attenzione, questo è importante, il carcere ti impone di subire l'autorità di un altro, cioè non scegliere tu quello che devi fare, tu quando sei in carcere non decidi tu che cosa fare, quando devi mangiare te lo dicono loro perché ti portano il vitto, quando devi andare a fare due passi te lo dicono loro perché è l'ora d'aria, quando devi andare a trovare i parenti te lo dicono loro perché il colloquio è stabilito da loro in quegli orari, in quei giorni, quando devi andare a dormire lo dicono loro perché spengono la luce e così via, no? La televisione a certe ore viene spenta, cioè tutto lo fai, cioè te lo fanno fare secondo i ritmi del carcere, quindi diventi una persona non autonoma, non sufficiente. E guardate un po', questo è quello che vuole, che lo Stato chiama rieducazione, cioè farti diventare una ameba che succube al potere esterno a te. Questa cosa però, attenzione, è l'elemento centrale che permette, l'elemento centrale, non secondario, che permette, riducendo le persone in questo stato, alle mafie di reclutare le persone ridotte in questo stato di amebe. Perché se ti riducono come una persona incapace di decidere da te quello che devi fare, incapace di scelte autonome, ma soggetto a un potere esterno, quel potere esterno può essere oggi il direttore del carcere, domani il capo della fabbrica, ma può essere anche il capo bastone. Sempre lo stesso potere esterno è, che ti dice quello che devi fare, e tu, abituato a obbedire, farai il bravo picciotto. Quindi lo Stato e la mafia stanno sullo stesso metro. Allora, andiamo avanti. Dunque, quali sono le prospettive oltre questa mancata riforma? Sembra un po' la storia del 1975. Comunque, che dire di questo, di quello che si vocifera? Non sappiamo niente di preciso sul programma del nuovo governo, se sarà questo o un altro, però sappiamo che già, per esempio, il Movimento 5 Stelle e Lega hanno deciso, in questo accordo che stanno facendo, di costruire nuove carceri e incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Beh, due provvedimenti che non ci fanno stare sereni. Non potremmo dire stai sereno a coloro che stanno al di là di tutti noi, insomma. Questo pensano di fare. Ora, quindi se si pensano di costruire nuove carceri, vuol dire che poi dentro ci vogliono mettere gente. Un'altra cosa che veramente mi fa perdere fiducia nel genere umano in questa fase, in questo periodo, e in particolare in questa regione chiamata Italia, ma anche in altre, comunque, è il fatto che la campagna elettorale, per esempio, di uno di questi partiti, la Lega, da tempo era uno dei principali, ce l'ha con l'immigrazione, no? Ah, fanno disastri, tutte cavolate completamente false, perché non è vero che la maggior parte dei reati li fanno loro, l'abbiamo smentito l'altra volta, i numeri sono numeri, se uno non sa fare uno più uno, vabbè, problemi sono suoi. Al primo punto metteva i respingimenti degli immigrati, quindi gli immigrati irregolari che vengono in Italia li rimandiamo subito, tornate a casa tua, li riportiamo, li mettiamo su un aereo e li portiamo a casa dove sono partiti. Non si può fare questa cosa qui, questa è una cosa talmente ovvia che sanno tutti, dovrebbero sapere tutti e tutte, però appunto siccome invece gli hanno dato il voto su questa cosa, intanto si dovrebbero ricordare, perché non è successo 3 secoli fa, che la Lega è stata 20 anni al governo insieme a Forza Italia e non hanno fatto respingimenti. Allora, quando loro erano al governo, esplose questo fenomeno dei grossi flussi migratori verso l'Europa. Lo ricordate, no? E non sono riusciti a fare niente, diciamo. Ma perché in effetti il problema è complesso, ma lo sa chiunque, voglio dire, si dia uno sguardo alle leggi esistenti. In un paese X arriva una persona, un immigrato irregolare, ci vuole un trattato tra il paese dove lui è arrivato e il paese da cui è partito, un trattato bilaterale chiaro, esplicito, sottoscritto da entrambi i paesi per il ritorno, per riportare questa persona là da dove è partita. E tra l'altro deve rispecchiare alcune cose, per esempio se nel paese da dove è partito c'era la pena di morte, non si può riportare, se nel paese dove è partito c'era la tortura, non si può espatriare, e tante altre clausole che stanno in questi due pezzi di carta che vanno firmati da due paesi. Non ci sono leggi generali su questo, non ci possono essere, ci devono essere trattati bilaterali tra il paese accogliente dove arriva l'immigrato e il paese da cui si presume che sia partito. Questo non c'è, c'è soltanto per pochissimi paesi, quindi questa fandonia dei respingimenti, però ci ha presi i voti. Allora io capisco, i politici fanno gli imbroglioni, dicono bugie, dicono tante cose, ma la gente, le persone che hanno creduto a queste cose, ma possibile che sono tutti internauti che vanno su internet? È facile trovare in internet la spiegazione di queste cose, basta battere respingimenti, leggi per respingimenti, c'è scritto chiaramente che ci vuole questa cosa che dicevo, cioè l'accordo bilaterale, lo sanno tutti, chi ha fatto anche le scuole medie lo sa, lo sanno tutti, ma l'imbecillità delle persone, la paura, questo terrore, oddio ci invadono eccetera, fa diventare cretini, ma il termine è questo, non mi dispiace dirlo, è cretineria questo fatto di credere a tutti quelli, se questi, qualcuno di questi roboanti comizianti dice la terra è quadrata, probabilmente molti ci credono. E allora come siamo messi? Siccome purtroppo il credere nelle fandonie arriva molto vicino a noi, per cui non c'è da essere felici, cioè, ma gli altri sono stupidi, no, gli altri, qui siamo tutti stupidi, ma stupidi grossi col botto, come si dice a Roma, sei stupido col botto, ecco, siamo un paese di stupidi col botto, perché si crede a questa storia dei respingimenti. Bene, andiamo avanti, un altro, tanto c'è poco da dire qui, rischiamo di fare una sequela di insulti, che però ben meritati, perché insomma, vabbè, appunto, non credete se vi dicono che la terra è quadrata, non è che ci vuole un pozzo di scienza per capire che non è quadrata, no? Allora, qualche giorno fa, il 13, ricorrevano i 40 anni dell'approvazione della legge 180, quella sui manicomi, detta impropriamente legge Basaglia. Perché impropriamente? Perché Basaglia non la voleva così. Tra l'altro la legge è partita da una serie sua e di altri così critici della psichiatria, del controllo psichiatrico, che hanno messo in discussione proprio concretamente, non solo come analisi, e l'opera del manicomio. Prima a Gorizia e poi a Trieste, Basaglia e i suoi collaboratori hanno aperto il manicomio, così come si dovrebbe appunto aprire il carcere, questo tanto per capire. Comunque, però appunto la proposta che lui faceva è di mettere in piedi una serie di strutture intermedie nel territorio, diciamo, di servizi sociali, attività che potessero, perché queste persone sono persone che hanno bisogno di aiuto, non di reclusione ma di aiuto, non di psicofarmaci ma di relazioni, di contatti, questo sì, hanno bisogno di parlare, di qualcuno che gli sta vicino, di relazioni molto forti, molto continue, ma no, né psicofarmaci, né contenzione, men che meno reclusione. Questo era il discorso in soldoni che ha fatto, molto articolato, ma li potete trovare. Ebbene, se ne sono dette tante cose, qual è la realtà di oggi? Ci dice qui, prendiamo un articolo dell'Espresso, ce ne sono tanti questi, comunque, che dice 600, dunque i manicomi sono stati chiusi, però le cliniche psichiatriche private sono tantissime, con un grosso business, e rinchiudono tantissima gente, si continua a usare l'elettroshock, che ha solo cambiato nome, però sempre quello è. E poi sono stati chiusi anche gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali, cioè quelle persone che fanno un reato e poi al momento del processo vengono ritenute insane di mente e non vanno in carcere, ma andavano negli OPG, nel manicomio criminale, appunto. Sono stati chiusi e al loro posto sono state fatte le REMS. Anche qui però si sono sviluppati un sacco di cliniche private. Perché questo? E tutto attiene allo stesso discorso che giustifica, che mantiene in piedi il carro, la paura. La gente ha paura di quello che ti viene a rubare, ha paura di se c'è un congiunto che secondo lui è squilibrato, può darsi che invece è quello che ritiene che sia squilibrato l'altro che ci abbia dei problemi. Comunque, ovviamente, come diceva qualcuno, qui nessuno è uguale all'altro, siamo tutti un po' diversi. Chi è più rilassato, chi è più agitato, che vogliamo mettere uno steccato per dire quelli troppo agitati li rinchiudiamo, quegli altri no, non c'è la normalità, non esiste la parola normale, non esiste, la usano anche questi, gli stupidi. Ci vuole una società accogliente che accoglie quelli agitati e quelli rilassati. Se tu sei troppo rilassato e vai in fabbrica, il capo reparto si incassa, ti dice che stai a fare, stai a dormire, la parola è che si usa più comunemente in fabbrica, chi di voi ha lavorato in cantieri, in queste, dove si lavora, dove si produce, è questa, ma che stai a dormire, ma che stai a fare un sogno, ma che stai a sognare, perché lì devi essere invece attivo, velocissimo, e se stai invece in un altro posto dove si sta rilassato e buono, sei invece che sei agitato, cioè come vedete è la società che non funziona, quindi bisognerebbe cambiare la società. Comunque ci dicono che ancora cioè gli OPC sono stati sostituiti dalle REMS, no? Le residenze per le misure di sicurezza, ma a tempo. E attualmente sono 604 le persone collocate all'interno delle REMS e 441 in attesa di un posto, quindi tutti sono oltre 1000 persone. Ci stanno tutte queste situazioni, insomma, il problema è che insomma anche qui bisogna riprendere la messa in discussione dello stigma di malato mentale. Ricordo, ma l'ho già detto altre volte, però ricordo che in carcere ci sta una filone di psichiatria sostenuto da convegni, assemblee che fanno, che è pericolosissimo, che dice che la gente in carcere si suicida, i detenuti e le detenute in carcere si suicidano perché sono malati di mente, perché diventano malati di mente. Allora qui veramente si raggiunge la stupidità anche da parte degli psichiatri. Se voi cari psichiatri dite che il carcere fa diventare infermi di mente, beh, la prima cosa che dovete fare è dovete scagliarvi contro il Ministero della Giustizia e dire chiudete le carceri, perché non è possibile che se fosse vero quello che dite, non si può accettare che uno Stato ha in piedi dei dispositivi chiamati carceri che fanno diventare le persone infermi di mente. Sarebbe il peggior crimine, peggiore di quello di Hitler, scusate, no? Ecco. Allora, per finire, che mancano soltanto 5 minuti, c'è un fatto successo in questi giorni, così questi primi di maggio, che veramente mi ha fatto saltare, sulla sedia, una cosa orribile. Allora, ricordate tutti che appunto 40 anni fa, il 9 maggio del 1978, un ragazzo, Peppino Impastato, di Cinisi, venne trovato morto sui binari. I giornali del giorno dopo, tutti i giornali, il giornalismo andrebbero fatti santi, i giornalisti, tutti i giornalisti e le giornaliste, non facciamo differenze, dissero che era un terrorista che stava mettendo un ordigno esplosivo sui binari di questo treno, e quindi però è morto perché evidentemente gli esplosi in mano, e quindi ben gli sta. Questo i giornali, andateli a rivedere, i giornali del 10 maggio 1978. Quel giorno era successo un altro fatto, era stato trovato morto il cadavere di Aldo Moro, del presidente della Democrazia Cristiana. Bene, adesso non si dice più che è un terrorista Peppino Impastato, anzi se ne fa l'elogio, si fa santo, perché Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia, poi è venuto fuori anche il processo, le responsabilità, tutto quanto, dalla mafia che non gradiva, lui teneva una radio un po' come questa, in un paese, in una cittadina piccola come Cinisi, e che attaccava quotidianamente, pesantemente, con l'arma dell'ironia, le strutture mafiose. Strutture mafiose che, attenzione, arrivavano fin dentro la sua famiglia. Il padre era uno legato a queste strutture mafiose e lo scontro tra lui e il padre era stato feroce. E lui, nonostante che appunto ci fosse il padre in mezzo a questo movimento di cosche, lui attaccava pesantemente la mafia. Perché lo faceva? Bene, oggi cercano di raccontarlo perché Peppino Impastato voleva difendere la legalità contro le malversazioni mafiose. Non è vero, ma è possibile che dite queste castronerie, queste schifose, veramente abietti, giornalisti abietti, ma vergognate, andate a fare un altro mestiere, è meglio rubare, è molto più dignitoso andare a rubare che scrivere queste baggianate. Allora, Peppino Impastato intanto era un compagno e attaccava la mafia perché era un comunista, e attaccava la mafia perché attaccava anche il capitale, perché la mafia e il capitale, l'abbiamo spiegato prima parlando di carcere, sono le due facce della stessa medaglia: rendere succube le persone, affermare la tesi per cui una persona non può muoversi autonomamente, non può decidere autonomamente che scelte fare, che cosa fare, ma deve essere sottoposta a un'autorità, sia esso quello del padrone della fabbrica, l'autorità istituzionale, oppure quello del capo bastone, non c'è cavoli. Quindi lui per questo combatteva la mafia, perché combatteva anche lo Stato, perché combatteva anche la legalità che serve di mantenere l'ordine capitalistico e anche mafioso esistente. La mafia non vuol cambiare le regole, non vuol cambiare la legalità, utilizza questa legalità che mantiene quest'ordine per, come dire, per trascinare le proprie attività. Non è che propone cambiamenti di legge o di oltre, no, ci sta bene dentro, è nata dentro questo sistema, anzi è nata a tutelare i proprietari, lo sapete tutti, è scritto sui libri, leggete ogni tanto che non fa male, la mafia è nata per tutelare i grandi latifondisti, i grandi proprietari di terre, contro le occupazioni di terre che i contadini poveri ed espropriati dai grandi latifondisti, appunto aiutati dalle mafie, volevano riprendersi le loro terre per coltivarle, perché molte di queste terre erano state lasciate abbandonate. Bene, i latifondisti assoldavano queste bande di picchiatori armati, che diventò quella è la mafia. La mafia sempre, fino al secondo dopoguerra, alla fine degli anni 40, quando ci fu la grossa occupazione delle terre in Sicilia, ebbene, chi la ributtò indietro? La mafia, al servizio dei potenti e anche del governo, insieme ai carabinieri. Questo è successo in Italia, la storia d'Italia bisogna saperla. È inutile che vi raccontate le frottole dicendo ci sta la legalità. No, la legalità sono le leggi che mantengono l'ordine capitalista, cioè le persone devono essere sfruttate, sottomesse e devono stare zitte, perché le leggi dicono appunto che non puoi scioperare, se non in situazioni particolari, lo stanno utilizzando. Comunque che devi accettare il tuo ruolo e lo devi devi tacere. Questo è il meccanismo. Il Peppino Impastato, come tutti gli altri compagni e compagne, si ribellavano a questo stato di cose e quindi attaccavano la mafia, ma attaccavano le sue trasmissioni, attaccava pure lo Stato, attaccava pure le istituzioni, attaccava pure quelle cose che per altro verso continuano sistemi di sfruttamento, di annichilimento, di devastazione della personalità della gente. Bene, oggi abbiamo finito il tempo, sono le 16, lasciamo i comandi e i microfoni a qui l'incorgo, che è qui pronto per raccontarvi che succede in questa città, che succede un po' un disastro, lo sapete. Noi ci sentiamo.